Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, è iniziato in questi minuti il Consiglio dei Ministri, quello che ha come oggetto, lo sappiamo, infatti il titolo potrebbe essere il giorno dell'IMU, l'IMU Day, la scelta, per usare le parole del Premier, strutturale sull'IMU. E quindi che cosa, varie ipotesi circolate, anche e soprattutto a questo punto riguardanti il reperimento delle risorse necessarie. Già ieri abbiamo chiarito che la prima rata, che valeva 2 miliardi e 4, è già stata coperta, però occorre coprire la seconda rata, altri 2 miliardi e 400 milioni. L'IMU complessivamente vale infatti 24 miliardi di euro ogni anno, ma la parte che riguarda le prime case, quindi quello che dovrebbe essere l'oggetto del governo, ne vale circa 4 di miliardi, 18 miliardi arrivano da altri immobili, tra cui appunto i 9 miliardi quasi pagati dalle imprese e i 5 miliardi dalle seconde case. Per quello che riguarda il prelievo fiscale sugli immobili, faccio notare che in Italia si arriva all'1,5% del PIL, in Gran Bretagna si è al 3,5% del PIL, in Francia al 2,5%, in Germania allo 0,4%, ma ripeto, a questo punto politicamente è chiaro che l'IMU, l'obiettivo è togliere su base permanente, quindi strutturare l'IMU. Il problema è capire da dove arriveranno le altre risorse. Ecco perché molti soggetti e osservatori sono spaventati dall'idea che altre risorse possano essere trovate da un aumento di accise di vario tipo. Ora, non tutte le accise sono uguali, è chiaro che aumentare alcuni tipi di accise per consumi molto limitati è un conto, aumentare complessivamente il prelievo e l'imposizione fiscale sui consumi è un altro, anche perché, lo dico, nel giorno in cui la Confcommercio, attraverso l'ufficio studi, ha fatto notare come nei primi sei mesi del 2013 le vendite al dettaglio siano calate del 3%. Tra l'altro a giugno ha fatto meno 3 secco rispetto al giugno del 2012, e tutto questo senza considerare l'inflazione. Ma ancora più significativo è il fatto che i consumi, quindi le vendite al dettaglio, sono alla 12ª flessione consecutiva anno su anno, cioè il tendenziale, quindi è il 12esimo mese da un anno che ogni volta che esce il dato e si va a vedere rispetto a un anno prima, il dato è in negativo. Tra l'altro le vendite sono in calo in tutte le tipologie di prodotti, e questo per quello che riguarda il mese di giugno: elettrodomestici meno 6%, prodotti farmaceutici meno 4,5%, resistono un po' meglio i prodotti per la casa, le ferramenta meno 0,6%, e anche telefonia e informatica meno 1,3%. Però insomma la Confcommercio e anche Federdistribuzione chiedono di archiviare definitivamente l'aumento dell'IVA, e questo è appunto il sentiero molto molto stretto su cui si muove l'iniziativa del governo. Parleremo anche di quanto oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore, mi riferisco all'intervista al ministro del welfare Giovannini, perché il Sole 24 Ore oggi ha scoperto intanto che le pensioni d'oro in questo paese, per quanto simbolicamente un segnale debba arrivare anche da lì, beh, è inutile però fare propaganda politica, i numeri sono molto semplici e molto chiari: sono 540 in tutto i pensionati che percepiscono oltre 20.000 euro lordi al mese, di questi 290 ricevono assegni superiori ai 24.000, per una spesa complessiva di 115 milioni di euro l'anno, su un totale di 270 miliardi che spendiamo ogni anno per le pensioni. Poi ci sono altri 7.500 pensionati che ricevono una pensione tra i 10 e i 15.000 euro lordi, e se vogliamo guardare chi percepisce più di 5.000 euro lordi di pensione, sono 188.000 persone con una spesa complessiva di 15 miliardi. Anche qui però attenzione, bisogna vedere se poi questa pensione è dovuta al metodo anche contributivo e sono avversato in tutti questi anni i soldi per la sua pensione. Mi permetto di dire, fermo restando che conosciamo le cifre su quanto poco percepiscono più della metà dei pensionati italiani, che però 5.000 euro lordi di pensione non sono una cifra, diciamo, da pensione d'oro, da pensione ottima, ma non da pensione d'oro, se vogliamo essere non populisti, fermo restando che metà della platea pensionistica italiana sta sotto i 1.000 euro al mese. Però attenzione, per cui se uno fa un calcolo, diciamo, volendo colpire da chi guadagna più di 10, di chi ottiene più di 10.000 euro lordi di pensione al mese, la platea si riduce appunto a 7.500 pensionati, il che non vuol dire, come per i costi della politica, che non sia giusto anche chiedere un sacrificio a loro, ci mancherebbe. Basta non raccontare che attraverso un prelievo sulle pensioni d'oro sistemeremo il problema dei conti pubblici italiani, un po' come chiedere alla politica di costare meno è assolutamente sacrosanto, però non è corretto immaginare che da lì arriverà il risanamento dei conti pubblici. Anche di questo parleremo, quindi IMU, Consiglio dei Ministri e conti pubblici, ma parleremo anche delle tensioni internazionali, perché ieri è stata la volta delle borse, oggi è la volta delle materie prime, nel senso che le borse vanno tutto sommato, sono piatte in Europa e Milano recupera anche qualcosa, più 1,15%, grazie soprattutto al Banco Popolare, a UbiBank e alla Popolare Emilia Romagna, cioè il mondo delle popolari, che poi ne parleremo, sull'ipotesi di una riforma che le renda più contendibili, si muove, più 7,5% Banco Popolare, più 6,5% UbiBank e più 4,60%. Percento la Popolare Emilia Romagna. Va detto che anche che UBI recupera anche dopo i conti diffusi ieri, leggermente migliore di previsto. Bene Eni, più 3%, e qui veniamo al tema del petrolio, nel senso che ne parleremo. Materie prime oggi sotto pressione, senza dubbi. L'oro è vicino ai massimi dallo scorso maggio, a 1421 dollari l'oncia, e il petrolio è in rialzo, ormai siamo a 110 dollari al barile, ma aveva toccato in mattinata i 112 dollari, il che vorrebbe dire in massimo da 2 anni a questa parte, quindi un effetto Siria c'è subito, e lo sanno i nostri automobilisti, che oggi si sono beccati subito un aumento dei prezzi raccomandati di benzina e gasolio, per quello che riguarda l'Eni di 1 centesimo, Shell e Kuwait mezzo centesimo. Il prezzo medio quindi della benzina va quindi oggi da 1.825 euro di Eni a 1.835, ma buonanotte, 1.825 euro al litro per Eni e 1.835 euro per Kuwait. Devo dire che poteva anche non essere un lapsus parlare di 1.000 euro al litro se continua così. Va bene, al di là della battuta, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, sulle pensioni poi ne parleremo. È chiaro che chi è già in pensione è andato con il retributivo e non con il contributivo, ci mancherebbe, ma qui stiamo ragionando sulle pensioni anche prossime, da un lato, e comunque il ragionamento era: vogliamo stabilire che 5.000 euro lordi sia una pensione d'oro? A me personalmente sembra un po' una forzatura, ma comunque chiediamo un contributo, va benissimo, alle pensioni, diciamo, di una certa entità, ben sapendo che i numeri sono quelli che leggevo e ben sapendo che non è da quello che arriveranno, diciamo, i soldi per il risanamento. È sicuramente un gesto simbolico e chiedere a tutti di partecipare, da ognuno secondo i suoi bisogni, da ognuno secondo le sue possibilità e ognuno secondo i suoi bisogni, così parafrasiamo Marx. Ancora per quello che riguarda la borsa, però, oltre alle banche, ad Eni c'è anche Finmeccanica, che oggi è in recupero, più 2,80%, e Saipem più 2,5%, Unicredit più 2%, Enel più 1,80% come Autogrill, Intesa più 1,60% come Fondiaria Sai ed Exor. Negativa invece Prismian, l'ex Pirelli Cavi, meno 2,5, Azimut, meno 2, Ferragamo, meno 1,70 come Ansaldo, Mediaset, meno 1,60 come Pirelli, l'1% lo perde Fiat Industrial e anche Luxottica. Le borse oggi sono state più stabili non solo in Europa ma anche in Medio Oriente dopo i pesanti cali di ieri. Dubai oggi ha chiuso in flessione dell'1,3%, la borsa saudita invece ha avuto anche un leggero rialzo più 0,4%. E invece continua a calare la rupia indiana. Voi direte, chi se ne frega? Beh, mica tanto, perché l'India è, dopo la Cina, la principale economia e con la Russia emergente. Una rupia bassa vuol dire, di converso, un euro molto forte e maggiore difficoltà per le nostre esportazioni. Ma insomma, sia i timori di un intervento militare in Siria che i prezzi petroliferi in rialzo hanno fatto calare la rupia indiana ai minimi storici. Ha fatto un meno 4%. Praticamente con un dollaro oggi si comprano 68,80 rupie. Pensate che solo questa settimana la valuta indiana ha perso l'8%, da inizio anno ha fatto un meno 20%. La rupia indiana soffre più di altre valute a causa del forte deficit commerciale del paese, dell'India. Ecco perché risente anche più di altri paesi dei venti di guerra sul Medio Oriente. In vista del prossimo G20 in programma a San Pietroburgo, G20 delicatissimo perché è molto probabile che Barack Obama vi arrivi con i bombardamenti già effettuati e già conclusi, stando a quello che vediamo, bombardamenti sulla Siria, verso i quali Mosca è nettamente contraria. Ma dicevo, in attesa del G20, oggi il leader del Cremlino, Vladimir Putin, nel suo messaggio di benvenuto per i partner del summit che poi si terrà appunto a San Pietroburgo il prossimo 5-6 settembre, ha detto: l'economia globale resta ancora in zona rischio, la ripresa c'è ma è lenta e il suo ritmo non è in grado di livellare gli squilibri globali. Allora, non si placano le acque invece per JP Morgan, colosso bancario americano che era uscito abbastanza illeso, diciamo, dalla crisi, dal crack del 2008. Perché lo dico? Perché da un lato dovrà pagare alle autorità qualcosa come tra i 500 e i 600 milioni di dollari per il fiasco della famosa balena di Londra, ossia il trader Bruno Ixil, che aveva assunto operazioni talmente importanti, pesanti, sul mercato dei derivati. I derivati, è inutile che mi rompano le scatole alcuni professionisti dei derivati, siamo sempre lì, quando prepariamo i titoli tossici arrivano sempre fuori i derivati, e chi ha amplificato tutti gli effetti di questa crisi finanziaria è stato l'uso scriteriato, sconsiderato, da apprendisti stregoni dei derivati, alla faccia di Lawrence Summers, che pensava che fossero tanto solo strumenti per gli addetti ai lavori, tutti capaci di valutarne i rischi. Qua quasi nessuno ha valutato i rischi, o meglio, li ha valutati e a quel punto è stato un incosciente. Comunque, Bruno Ixil aveva assunto posizioni talmente importanti sul mercato dei derivati da influenzarne l'andamento, tanto era pesante l'intervento dell'uomo di JP Morgan, e tra l'altro ha causato alla banca perdite per oltre 6 miliardi di dollari. Ma adesso dovrà pagare JP Morgan tra i 500 e i 600 milioni di dollari, e poi le autorità americane stanno chiedendo a JP Morgan di pagare più di 6 miliardi di dollari, questo è un altro fronte, per risolvere le accuse di aver venduto titoli legati ai mutui alle società sponsorizzate dal governo, ossia Fannie Mae e Freddie Mac, durante la crisi. E accusa ancora più perniciosa, perché tra l'altro si era in pieno salvataggio di Fannie Mae e Freddie Mac. Tra l'altro JP Morgan oppone resistenza perché si tratterebbe di un vero e proprio patteggiamento post-crisi da record. Immaginiamo pagare oltre 6 miliardi di dollari per patteggiare le accuse legate appunto alla cessione di titoli legati ai mutui da parte di JP Morgan. Allora, veniamo invece all'Europa, dove c'è un calo per il 15° mese di fila dei prestiti alle famiglie e alle imprese, meno 1,9% rispetto già al meno 1,6% di giugno, per cui la stretta del credito c'è in tutta Europa, poi in Germania molto meno, da noi molto di più. E invece, andando alla Spagna, la crisi si sta riflettendo in maniera massiccia sul settore immobiliare. Non è una novità, ma insomma il dato che riguarda i primi sei mesi è molto significativo. I mutui sono crollati del 42%, cioè 42% di mutui in meno, stipulati in meno nei primi sei mesi dell'anno. È la cifra più bassa da 10 anni a questa parte. C'è anche qui un motivo molto semplice: le banche non vogliono concedere prestiti, anche perché dicono di avere garanzie insufficienti, e poi invece la crisi che non consente a molti spagnoli di comprare casa. Ci sono in Spagna decine di migliaia di appartamenti invenduti, in gran parte di banche poi che sono entrate in crisi, le famose casse di risparmio poi confluite nel colosso bancario Bankia, che l'Europa ha dovuto salvare. Ricorderete la vicenda di Bankia. Ancora due notizie in breve: lo spread ripiega sotto i 260 punti, lo spread italiano a 255, 10 punti di differenza con quello spagnolo, ossia un nostro BTP a 10 anni rende il 4,42%, il BTP a 10 anni spagnolo rende un po' di più, il 4,52%, e questi 10 punti è appunto la differenza tra il nostro spread con la Germania e lo spread spagnolo con la Germania. Allora, delle 20 al dettaglio abbiamo detto, ma questo ci permette di arrivare al primo tema e al Consiglio dei Ministri, molto atteso anche per il suo cotè, per la sua valenza di carattere politico, però mi sembra di poter dire che da questo punto di vista non ci dovrebbero essere sorprese. Qualche sorpresa in più potremmo averla dal capire come, o dal vedere come il governo troverà le risorse che non arriveranno dalla seconda rata dell'IMU. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, vedo un ascoltatore che dice: la smetta, i derivati non sono uno strumento negativo in sé, ma per come sono stati utilizzati. Certo, ci mancherebbe, nascevano come strumenti di ricopertura, però mi scusi, se stiamo ragionando sull'utilizzo della bomba nucleare o della ricerca sul nucleare, poi ho capito, anche quella è una ricerca che nasceva per motivi assolutamente positivi per produrre energia, poi però l'utilizzo è importante. Allora, a me sapere perché gli derivati erano uno strumento di ricopertura, di assicurazione su certe operazioni, va benissimo. Io sto solo ragionando di come sono stati utilizzati in questi anni e del disastro che hanno creato, e non è che con i se e con i ma facciamo la storia. Chi se ne frega se le cose sarebbero andate diversamente, se tutti quei trader non si fossero arricchiti così tanto utilizzando i derivati in maniera sconsiderata. Chi se ne frega. Vabbè, restiamo sull'IMU Day, Consiglio dei Ministri. Allora, le ipotesi, per quello che ho capito e che abbiamo capito, aumento del prelievo sui carburanti, eccoci lì, l'accisa sui carburanti, quello per la rata di dicembre, cancellata per le prime abitazioni, per gli immobili invenduti e sfitti, per gli immobili d'impresa rispunta l'ipotesi di una deduzione del 50% dell'IMU pagato da IRPEF IRES. E poi da 2014 nuova tassa unica federale al posto di IMU, tassa sui rifiuti, addizionali regionali, comunali, IRPEF, la cosiddetta service tax, che dovrebbe contenere dentro tutto. Però, memori dell'esperienza dell'IRAP, che anche l'IRAP nasceva come tassa che ne inglobava molte altre, insomma, il Sole 24 Ore in maniera molto maliziosa oggi dice: insomma, non è che con questa service tax di fatto si arriverà a un aumento della tassazione complessiva, perché anche qui a me interessa poco non pagare l'IMU se poi pago molto di più altro tipo di tasse locali o addizionali o accise. Dino Pesole, sei stato molto malizioso oggi, buonasera. Buonasera, buonasera. Beh no, più che altro poniamo degli interrogativi che poi l'esperienza, come tu ricordavi, di imposte che abbiamo vissuto negli anni scorsi ci dimostra che in effetti il sospetto poi è legittimo, quindi come dire, abbiamo posto un interrogativo, l'interrogativo è concentrato esattamente su questa specie di illustre sconosciuto che ancora è questa imposta, di cui si parla molto, ma sostanzialmente nessuno è in grado nemmeno ancora oggi di evidenziare su che cosa poi dovrebbe andare a colpire, perché tassa sui servizi vuol dire tutto e niente, sì. Quello che si sa è che dovrebbe sostituire l'IMU. Allora qual è il sospetto? Il sospetto è che, come spesso avviene nel nostro paese, a un'imposta si cambia nome, si può, come dire, portare avanti la bandiera verso gli elettori dicendo che è stata abolita e poi magari la ritroviamo sotto mentite spoglie in altra versione, magari con un aggravio di imposizione, e dunque secondo me questa è la questione sulla quale vigilare da qua alla legge di stabilità, non ci sarà molto da attendere. Eh sì, anche perché verso le 7-8 di sera dovremmo avere una risposta anche da questo Consiglio dei Ministri. Per ora, allora, chiarisco anche agli ascoltatori, il punto non è solo trovare i 2 miliardi e 4 della rata di dicembre, questo insomma forse si riesce, il problema è rendere, come ha detto il Premier Letta, strutturale l'eliminazione dell'IMU. Allora a quel punto devi reperire ogni anno almeno 4 miliardi, ho capito bene? Sì, esatto, è la cifra che a regime deve essere recuperata per sostituire il gettito IMU, che peraltro è in gran parte il gettito che viene utilizzato dai comuni. Anche se nell'attuale versione, lo ricordo, l'IMU è un'imposta un po' ibrida, perché nella versione varata dal decreto Salvi Italia Monti 2011, l'IMU è di fatto metà imposta statale, metà imposta locale. Adesso a questo punto si dovrebbe arrivare, crediamo, ad una imposizione interamente locale. Dunque anche qui bisogna capire, perché se poi alla fine l'imposizione locale, poi saranno i comuni costretti a aumentare le tasse in mancanza di trasferimenti statali, in base ai quali poi si rientri sul mancato gettito, e alla fine la partita è sempre quella. Quindi certamente hanno individuato i 2,4 miliardi che servono alla cancellazione definitiva dell'imposta pagata, che avremmo dovuto pagare a giugno, e lo ricordo perché lì c'era una copertura provvisoria. Dunque andava sostituita, perché era stato... Ti risulta che oltre ai carburanti anche i giochi, la tassa sui giochi, sì, vero? Perché tassa sui giochi, si tratta di un vecchio contenzioso che risale ad alcuni anni fa, che riguarda una sorta di sanatoria sulle slot machine, dalle quali dovrebbe entrare, dalle ultimissime notizie che abbiamo da fonti di governo, circa 600 milioni. Poi ci sarebbe... Scusami, però adesso io forse capisco male, ma la sanatoria non è per definizione una tantum? La sanatoria è per definizione una tantum. No, nel senso che è un po' come la morte, cioè, è difficile, insomma. Allora, magari l'esempio non è così allegro, però no, questo per dire che, ok, tu recuperi 600 milioni dalla sanatoria sulle slot machine quest'anno, ma io a dicembre ho il problema di nuovo di trovare 4 miliardi strutturali per coprire il mancato introito dell'IMU sulla prima casa. Esattamente, è per quello che la legge di stabilità dovrà individuare risorse certe, perché sennò non passa a Bruxelles una cosa del genere. Risorse certe che non potranno che derivare da quella che si annuncia come la nuova operazione sulla spesa corrente, ammesso che si riesca a farlo, la nuova spending review, come si dice. E poi c'è questa partita che riguarda anch'essa un'anticipazione, se vogliamo, perché si sta prospettando di coprire la manovra sull'IVA con il gettito IVA atteso dallo sblocco di un'altra tranche dei debiti commerciali della pubblica amministrazione, circa 10 miliardi, che secondo gli ultimi calcoli dovrebbe garantire un maggior gettito IVA attorno agli 800 milioni. Allora, questa va chiarita, perché... delle volte il gioco delle tre carte sembra una cosa da... Allora, praticamente ci sono le imprese che aspettano 100 miliardi di euro complessivamente dalla pubblica amministrazione. Il governo ha iniziato già con Monti, adesso con Letta, ne riderà parte. L'obiettivo è arrivare a 30-40 miliardi, adesso dovrebbe arrivare un'altra tranche da 10 miliardi. Che cosa succede? Su questi soldi che le imprese aspettano e che riceveranno si paga l'IVA. Certo. Ecco perché il governo dice, bene, io devo far uscire 10 miliardi, perché devo far uscire, perché li ho promessi, perché l'Europa mi ha dato via libera e quant'altro, però in realtà me ne tornano dentro 800, perché ci pago l'IVA. Ecco che questi vengono utilizzati in parte per l'IMU, prego Dino. Sì, si tratta di fatture, di fatto. Fatture, no? Beh, certo. Di fatture che da anni le imprese attendono, e dunque se verranno, come si pensa, onorate, dovrebbero garantire questo maggior gettito IVA, che comunque sempre maggior gettito fiscale è. Allora da qui ritorna un po' l'interrogativo che ispirava le riflessioni di oggi che abbiamo fatto sulle 24 sì, ore. Sì, certo. Alla fine non vorremmo che cioè, a fronte di una però senti Dino, adesso è molto io non sono un economista, questo lo sanno e si capisce, lo sanno tutti gli ascoltatori, però è molto facile il ragionamento secondo me. Allora, se tu rinunci a 4 miliardi per l'anno prossimo, ci sono due possibilità: o l'economia riparte e quindi tu hai un aumento complessivo del PIL oltre che del gettito, per cui tu non hai un problema sul deficit PIL, no? Nel senso che ti aumenta il PIL, siccome a te quello che interessa è il rapporto, stai dentro il patto di stabilità anche con 4 miliardi in meno. O tagli 4 miliardi di spese, e non ho ancora capito dove, perché la spending review non sta producendo nulla su questo. E siccome queste due possibilità sono le uniche due, l'alternativa, la terza, è aumentare le tasse da altre parti. Cioè, io non vedo molte altre possibilità, o no? Beh, è sempre il problema con il quale ci stiamo misurando da anni, cioè si annunciano tagli alla spesa, non si riescono a fare, anche perché l'operazione sulla spesa è complessa, come sappiamo, essendo la spesa un potente strumento di di consenso elettorale, non c'è dubbio su questo. E allora si ritorna alla vecchia e abusata arma, anche più semplice se vogliamo dal punto di vista contabile, dell'aumento del prelievo. Però qui bisogna stare un po' attenti, perché oltre ai rischi politici noi non possiamo consentirci ulteriori aumenti della pressione fiscale, ormai siamo arrivati al 44%. No, ma anche perché il dato di oggi sui consumi della Confcommercio è drammatico, meno 3%, sono 12 mesi di fila, 15 mesi di fila che cala il dato sui consumi anno su anno. No, a me ricorda sono molto la muinna, no? Chi sta a prora va a poppa, chi sta a poppa va a prora, ma poi alla fine mi levi l'IMU e mi aumenti la benzina, così se io per caso sono uno in affitto che usa la macchina, è arrivato diciamo un volatile per diabetici, e se invece io sono uno che non usa la macchina e magari ho la casa, ne ho un vantaggio, però alla fine non vorrei che il gioco fosse a somma zero. Grazie a Dino Pesole. Grazie a voi. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua. Vabbè, incerto il futuro del prelievo fiscale. Sì, devo confermare quello che scrivono molti ascoltatori che mi chiedono lumi. Allora, il Consiglio dei Ministri è appena iniziato, non è ancora finito, però delle ipotesi viste, sanatoria sulle slot machine e aumento del prelievo sui carburanti, quello è quello che abbiamo visto. Poi spero di no, anche perché stanno aumentando grazie alla Siria per i fatti loro, per cui. Ha ragione chi dice che aumentando le tasse sui carburanti, le accise, se aumenta comunque il prezzo dei beni, perché la maggior parte dei beni sono trasportati da camion, quindi usando il gasolio da autotrazione. È vero, verissimo, diciamo sempre, c'è un elemento di inflazione nell'aumento del prezzo del carburante, ma queste sono scelte politiche più che economiche, inutile fare ragionamenti solo di carattere economico. È il nostro grande cuore. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Il traffico, appunto, poi la borsa, le materie prime e le dichiarazioni del ministro del welfare oggi su Sole 24 Ore sulla riforma, non la riforma delle pensioni, ma alcune modifiche possibili. Focus Economia. 17:39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa e poi le materie prime, e qui andiamo direttamente alle tensioni internazionali. Devo dire oggi meglio tutte le borse medio orientali, come ricordavamo, Milano anche bene, più 1%, Parigi meno 0,21, Francoforte meno 1%, Londra meno 0,17, l'America guadagna lo 0,25%. Il tema di oggi si chiama Mondo delle banche popolari. Il Banco Popolare guadagna il 6,80, UbiBanca il 6,30, la Popolare Emilia Romagna il 5%. Flavia Carletti, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Di nuovo si ragiona sulla riforma che le renda più contendibili, più scalabili, ma ci sono anche i dati di UbiBanca. Esattamente, diciamo che la questione che tiene banco spesso sulle banche popolari è quella di eventuali aggregazioni nel settore. Nonostante sia Massia di UbiBanca che Saviotti e il Banco Popolare abbiano escluso questi contatti, c'è comunque chi rilanciava questa ipotesi nel comparto. Però secondo alcuni analisti oggi proprio l'elemento che ha catalizzato l'attenzione sulle popolari sono stati i risultati, in particolare quelli del Banco Popolare, che ha visto l'utile semestrale salire a 156 milioni di euro superando le attese del mercato. E anche UbiBanca ha dato segnali positivi con la trimestrale, e che ieri era stata penalizzata dalla giornata negativa generale, oggi ha recuperato terreno proprio in virtù di questi conti che erano stati già pubblicati, e ha beneficiato poi di questa giornata positiva per tutto il settore anche la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, proprio a significare che comunque oggi c'è stata un'attenzione generale a tutte le banche di questo comparto, che nonostante sia stata quella che ha presentato conti peggiori di tutte quante, infatti ha visto l'utile calare con dati inferiori alle attese, alla fine è riuscita a guadagnare comunque il 5% proprio sulla scia degli acquisti delle altre banche popolari. Ancora, invece va male oggi la Popolare Emilia Romagna, per cui da questo punto di vista il titolo, in una giornata in cui andavano, come la Popolare Emilia Romagna, fa 5%, vanno e sono più deboli altre banche, e mi riferisco in questo caso, pur con segnali leggermente positivi, alla Popolare Milano, ecco, il lapsus, più 0,50%, cioè non rientrano tutte le banche in questo ragionamento del mondo stesso, popolare. Esatto, non è riuscita a fare lo stesso delle altre, andava meglio in giornata, poi quando sono emersi maggiormente gli acquisti sulle altre è stata un po' più penalizzata, come se a un certo punto gli operatori abbiano deciso di investire completamente su quelle che già andavano bene, abbiano un po' più abbandonato la Popolare di Milano, che nonostante i conti sono stati incoraggianti e si parla del fatto che si potrebbe sempre parlare di questo cambio di governance, alla fine poi comunque ancora non ci sono segnali decisivi, diciamo, da questo punto di vista. Certo, invece cambiando radicalmente settore, oggi alcuni giornali riportavano l'ipotesi che la Cassa Depositi e Prestiti potesse entrare in ansaldo per evitare un acquisto straniero, mettiamola così. Il titolo come si è mosso? Perché di solito in questi casi il mercato si raffredda. Esattamente, su queste notizie c'è stato proprio un andamento completamente opposto per Finmeccanica, che è la controllante di Ansaldo STS, e per STS. Il mercato sembra comunque apprezzare questa ipotesi per quanto riguarda Finmeccanica, e fa l'esatto contrario per Ansaldo STS, perché per Finmeccanica, se dovesse vendere queste partecipazioni alla Cassa Depositi e Prestiti, avrebbe un alleggerimento di quello che è la sua situazione debitoria, e quindi potrebbe avere maggiore, magari più possibilità di manovrare, più possibilità di muoversi, perché avrebbe, diciamo, un peso in meno sulle spalle. Al contrario, secondo gli analisti, se Ansaldo STS, l'ipotesi data da alcune indiscrezioni è che potrebbe essere ceduto il 29% sul 40% posseduto da Finmeccanica, in qualche modo raffredda tutto quello che è considerato l'appeal sul titolo per una possibile OPA, probabilmente anche straniera, come si diceva. E quindi questa cosa, visto che in alcuni report si parlava del fatto che il prezzo obiettivo che Ansaldo incorpora quasi già una percentuale di speculazione su una possibile OPA, se dovesse prendersi il 29% questo fondo strategico della Cassa Depositi e Prestiti, tramonterebbero queste ipotesi, e quindi oggi infatti Ansaldo ha perso quasi il 2%, mentre invece Finmeccanica ha guadagnato il 2,73%. Sì, hai ragione, questa chiaramente è l'ipotesi per cui si raffredda il titolo. Ancora migliori e peggiori della giornata, fermo restando che Prismian ha perso il 2,76%, Azimut il 2,20, Ansaldo il 2%, Pirelli meno 1,60 come Mediaset. Diciamo anche qui attenzione a legarla sempre a Silvio Berlusconi, io ricordo sempre che il titolo è a quasi il 100% in più rispetto ad aprile. Comunque, Salvatore Ferragamo meno 1,47, Fiat meno 1,30, Luxottica meno 1,1. In assoluto, miglior titolo Neurosoft più 17,70, Casa Damiani più 9,90 e appunto il Banco Popolare più 6,80, peggior titolo Carrefour meno 5,40 e poi Bolzoni meno 4,70%. Grazie a Flavia Carletti, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, ma noi restiamo in tema di mercati. Allora, eravamo arrivati a metà anno con un oro in continuo, lento ma inesorabile calo. Da inizio anno comunque l'oro è ancora sotto di un 15%, e anche con un petrolio che insomma continuava a stare per mesi stabilmente sotto i 100 dollari al barile, a 90, 89, 88. Anche perché le prospettive per quello che riguarda il 2014-2013 non sono di un aumento dei consumi energetici, anzi di un leggero rallentamento. Però è intervenuto l'escalation, chiamiamola così, delle tensioni con la Siria, il massacro, l'accusa di utilizzo di armi chimiche e a questo punto un attacco missilistico che la maggior parte degli osservatori danno per scontato, dubbi ancora sulla durata, intanto su quando verrà, ma soprattutto sulla durata. Conseguenze, l'oro oggi è andato a 1421 dollari l'oncia e stiamo parlando del massimo da maggio, e il petrolio ha toccato il massimo da due anni a questa parte, 112 dollari a New York al barile. Di questo parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Andrea Guarnieri, analista di Commodities Partners, società di investimenti in Svizzera, che appunto, come dice il nome, non è che abbiate avuto una grande fantasia, eh? Comunque si occupa di materie prime, di commodities. Buonasera. Buonasera, grazie. È in viva voce Guarnieri? No. Allora nel tunnel del San Gottardo, da qualche parte, la sento molto male. Comunque, allora, al di là delle tensioni di oggi, che a mio avviso fanno il paio con quanto visto ieri sulla borsa, c'è un po' di reazione, anche un po' di reazione speculativa, c'è la tentazione di andare a muoversi sulle tensioni medio orientali è fortissima, però io vorrei sapere, è l'inizio di un'inversione oppure una fiammata, per cui un po' di tensione, poi i prezzi nel medio termine di oro e petrolio voi li vedete sostanzialmente sui livelli degli ultimi mesi? Diciamo che partendo dal petrolio devo dirle che la tensione c'è dall'inizio luglio, quando ha superato i 100 dollari al barile, quindi ormai sono due mesi, visto che dopo domani chiuderemo il mese di agosto, e una volta superati i 100 dollari al barile non siamo più tornati sotto a quel livello, abbiamo fatto un minimo 101,50 dollari soltanto, e diciamo che è vero che questo prezzo è aumentato oggi, ha fatto 112 dollari come massimo. Però è anche vero che soltanto ieri era ancora 106 dollari e il massimo del 16 di agosto è stato 108, quindi diciamo che al momento è difficile parlare di un'inversione tendenza quanto di una conferma di una tendenza partita proprio all'inizio luglio. Però questo vorrebbe dire che la tendenza è partita ben prima che si ipotizzasse un attacco americano alla Siria, mi scusi? Sì, assolutamente, dal mio punto di vista sì, nel senso che tra l'altro la parte... noi seguiamo tutte le materie prime, anche se detto giustamente non abbiamo magari avuto molta fantasia nell'azienda, nel nome dell'azienda, seguendo appunto tutte le commodity posso dire che il settore energy è quello più performante da inizio anno, anzi è l'unico positivo. Quindi la tensione siriana potrebbe, diciamo, irrobustire, rafforzare questa tendenza, secondo lei, oppure sono due cose che viaggiano completamente scollegate? Cioè, una è la tendenza di medio e lungo termine, l'altra è l'accidentalità di una crisi e di un eventuale attacco missilistico in Siria. Diciamo che forse quando c'è una tendenza così dichiarata a rialzo, come quella in essere proprio da inizio d'anno, direi, sulla parte energy, quindi anche sul petrolio, per assurdo questa fiammata rialzista potrebbe quasi essere, se non fosse protratta nel tempo, potrebbe poi rivelarsi invece un massimo importante. Quindi siccome fa capire anche a noi? Praticamente buona parte delle situazioni sono scontate già nei prezzi, quindi il prezzo in questo momento incorpora già una situazione come quella che lei ha detto prima, cioè quell'attacco che potrebbe durare due o tre giorni. Okay. La mia idea è che se veramente la cosa non degenerasse, quindi si limitasse, allora probabilmente siamo vicini a dei massimi relativi importanti sul petrolio, anche perché... Ok, adesso ho capito, cioè dice i prezzi di petrolio e forse anche di oro già incamerano un attacco, chiamiamolo così, chirurgico, selettivo e chirurgico, di breve durata e esatto. Potrebbero essere i massimi, per cui eventualmente ci sarebbe un ripiegamento da quei massimi. Esattamente, io farei attenzione proprio perché io... E vedo più un pericolo di quel genere, anche perché abbiamo toccato, siamo vicinissimi al massimo del 2011 che era stato fatto a $115 al barile, quindi abbiamo un'altra resistenza significativa lì, è da seguire tutto con attenzione, però anche il ripiegamento che ha avuto dai 112 è tornato sotto i $110 in quell'area oggi, non è proprio una conferma di... una conferma rialzista così... No, è chiarissimo quello che lei dice, se non degenera ulteriormente è già incluso nei prezzi, diciamo, l'effetto attacco alla Siria. Era importante anche per evitare così speculazioni o forzature varie. Grazie a Andrea Guarneri, analista di Commodities Partners, appunto società di investimenti in commodities, che ha sede in Svizzera. Grazie a lei. Oh, torniamo sull'Italia, c'è un ascoltatore che scrive: invece che aumentare le accise sulla benzina per recuperare i soldi del limo, basterebbe aumentare le accise sulle bevande alcoliche, la Coca-Cola, le aranciate varie, le slot, i giochi, le merendine per bambini, legalizzare le droghe leggere con forte accise e aprire le case chiuse, quindi i bordelli, con abolizione della legge Merlin. Così poi magari mettiamo anche i distributori di bevande alcoliche, Coca-Cola aranciata dentro le case chiuse e anche le droghe leggere, a quel punto diciamo tutto entra, diciamo, in un'unica grande accisa, l'accisa post Merlin possiamo chiamarla, non so, chiedo. Per carità, i soldi si possono riprendere da tante cose, però insomma, creiamo un tempio dell'accisa in cui uno va anche a far benzina, va... nel casino, va a far benzina, compra la merendina, compra la Coca-Cola, si fa una canna, esce e a quel punto, cioè, la canna se la fa per forza a quel punto con quello che ha pagato. Voglio tornare a essere serio. Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera. In attesa di avere, diciamo, la casa delle accise, la casa aperta alle accise, veniamo a cose molto serie, perché voi oggi avete sfatato, tra virgolette, un mito, perché in questo paese poi partono sempre i miti. Il mito che si possa risolvere i conti pubblici non con le accise sui bordelli, ma in realtà tagliando le pensioni d'oro. Ora, voi avete scoperto, numeri alla mano, perché la cifra del Sole 24 Ore sono i fatti e i numeri, che le pensioni d'oro, che pure hanno un effetto simbolico molto forte, cioè è giusto chiedere a chi ha 10, 15, 20 miliardi di pensione un contributo, ma da sole risolverebbero ben poco. Ma sì, noi siamo andati avanti per anni, il dibattito sulle pensioni d'oro, facendo immaginare a questo paese che dalle pensioni d'oggi potesse ricavare un tesoro per coprire chissà quali esigenze di finanza pubblica. In realtà dalle tabelle che finalmente l'INPS ha reso disponibili vediamo come i numeri sono abbastanza ridotti. Se noi andiamo con gli assegni sopra i 20.000 euro lordi, per esempio, lordi parliamo, quindi un assegno di circa 10.000 euro al netto, sono soltanto 540 pensionati in Italia. Questo ti fa capire che la massa d'urto complessiva è estremamente ridotta. Se andiamo oltre i 24.000, per esempio, sono soltanto 114 milioni di euro, per cui diciamo in chiave ridistributiva si può portare a casa molto poco. Però io credo fortemente in quello che tu dicevi, cioè c'è comunque un elemento simbolico di iniquità in queste pensioni e quindi questo dato non deve farci indurre a pensare che non bisogna intervenire, anzi ancora di più bisogna intervenire, ma bisogna intervenire con la consapevolezza di quelle che sono le cifre reali. Sì, insomma, un po' come sui costi della politica, è giusto ridurli, sacrosanto ridurli di tutta la politica, l'abbiamo raccontata per un anno. Anche quella regionale e comunale, no, non immaginarsi però che da lì arrivino i grandi risanamenti dei conti pubblici. Altro capitolo però. Sì, no, perché ti dicevo, lì si fa demagogia se va su quel ragionamento lì, però è giusto intervenire anche perché non è solo un fatto di equità perché le pensioni sono alte, è perché queste pensioni poi non sono coperte dai contributi adeguati a quelle pensioni. Noi oggi siamo passati a un contributivo per tutti, come sappiamo, quindi quello che noi investiamo, quello incasseremo come pensione, invece in questo caso queste sono pensioni per le quali è stato versato probabilmente un decimo di quello che perché poi il metodo retributivo, e infatti c'è anche da distinguere. A mio avviso avrebbe più senso fare una distinzione tra contributivo e retributivo che tra pensione da 6.000 euro o da 4.000 euro, ma è una mia idea personale, perché se i 6.000 euro sono tutti di retributivo, di contributivo, te li sei tra virgolette guadagnati, se i 4.000 sono di retributivo e ne hai versato un decimo è giusto che tu contribuisca. Perfetto, credo ecco perché si chiama contributivo, perché devi contribuire. No, scherzo. Dimmi un'altra cosa invece, però. Giovannini oggi, il ministro, sul Sole 24 Ore, in un'intervista che vi ha rilasciato, ha fatto capire che il governo non vuole fare una controriforma delle pensioni, ma c'è un'idea di una contopensione a chi lascia il posto? Ma guarda, questa può essere un'idea da approfondire e da sviluppare. Noi parliamo molto spesso dell'emergenza giovani, in maniera giusta, parliamo dell'emergenza giovani in chiave occupazionale. C'è un'emergenza però altrettanto drammatica, cioè di chi perde il posto in tarda età, e con l'allungamento dell'età delle pensioni sono molti quelli che perdono il lavoro magari a 60 anni e sono ancora lontani dalla pensione. Allora Giovannini dice: per queste persone, per chi perde il posto di lavoro a 2-3 anni dalla pensione, perché non pensare di anticipare parte del trattamento pensionistico e distribuirlo su questi 2-3 anni? Non è una pensione anticipata, è un anticipo di quello che ti è dovuto, quindi in qualche modo poi dopo lo sconterai, però ti dà una copertura a quello che può essere un periodo drammatico della tua vita, di disoccupazione. E l'idea non è sbagliata, cioè, bisogna poi vedere la pensione, ma insomma uno potrebbe dire: devo ricevere 2.000 euro di pensione, ti do un acconto in questi mesi, ma delle volte anche anni, e faccio e l'utilizzo come periodo ponte. Staremo a vedere intanto domani, o meglio stasera, cosa deciderà il Consiglio dei Ministri sull'IMU. Intanto grazie al vice direttore del Sole 24 Ore Fabrizio Forché. Da Sebastiano Barisoni l'augurio a voi tutti in ascolto di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.